Inizia questo venerdì 29 maggio al Parco delle Caserme Rosse di Bologna il Festival Sociale delle Culture Antifasciste, 5 giorni di campeggio fino al 2 giugno con incontri, dibattiti e eventi culturali per declinare l'antifascismo. Noi abbiamo raggiunto a Bologna Vittorio, uno degli organizzatori del festival. Ciao Vittorio. Ciao. Io Vittorio partirei dall'idea, perché un festival delle culture antifasciste oggi, quali sono le realtà che hanno organizzato o aderito all'iniziativa? Allora, un festival delle culture antifasciste perché... Certamente ci troviamo in un periodo, sono anni nei quali la destra si sta dilatando, si sta allargando, sta producendo a sua volta una sorta di controcultura, di acultura, dell'intolleranza, dell'aggressione, del conflitto con, in particolare con i migranti, ma anche con le comunità di genere, dell'LGBTQ, eccetera. E trova una sua base ampia, purtroppo, in una destra sociale che va oltre i gruppi noti, Forza Nuova, Casa Pound, che sono aggressivi, sono pericolosi e violenti, o oltre anche alla stessa destra di governo che produce le leggi, che giustificano le ronde, che giustificano l'isolamento dei migranti, la sottrazione dei diritti dalla salute, alla scuola, eccetera. E quindi su questa destra sociale che bisogna intervenire, e a partire dalla cultura, bisogna rimettere in campo le nostre culture, le culture diverse, antifasciste, che sono quelle appunto delle donne, dei migranti, degli studenti, dei lavoratori. E su questi 5 giorni abbiamo cercato di raccogliere più cose possibile. Abbiamo messo molto di teatro, di musica, di cinema e di letteratura, storia. Saranno tavoli quasi su ognuno di queste tematiche, in particolare revisionismo, come adesso, eccetera. Saranno un totale di quasi 90 eventi in 5 giornate da seguire. Chi ha organizzato? È stata una sorta di autoconvocazione dal basso a cui hanno aderito individualità e realtà organizzate nella maniera più trasversale possibile e su tutto lo spettro dell'antifascismo bolognese all'inizio, per poi estendersi al coinvolgimento di compagni di realtà da altre città. E quindi col passare del tempo ha avuto sempre più la connotazione nazionale. C'è di mezzo, giustamente, in convocazione fin dall'inizio l'ANPI e le associazioni delle vittime del nazifascismo. Nelle giornate di inizio ci saranno anche le associazioni delle vittime del fascismo del dopoguerra, quindi dalle vittime delle stragi, quelle della Uno Bianca e di tutte quelle... eventi tragici che hanno marcato sì Bologna ma anche il resto del paese. Il luogo scelto è in qualche modo simbolico, vuoi spiegarci perché proprio il Parco delle Caserme Rosse a Bologna? Assolutamente sì, è simbolico in quanto queste caserme rosse sono state nel 43 sono state il punto di smistamento verso i campi di concentramento tedeschi e verso i campi di lavoro tedeschi di migliaia e migliaia di italiani che sono stati poi deportati, italiani, ebrei, carabinieri per esempio, tantissimi carabinieri che dopo l'8 settembre presi e rastrellati a Roma sono stati portati da qui e da qui poi portati nei campi tedeschi o inoltrati verso Fossole che a sua volta poi li mandava su. E anche tantissimo stati fucilati qua. In questi anni, grazie al lavoro di Armando Sarti, sono vicepresidente dell'ANPI qui, della sezione della Bolognina, si sta scavando per recuperare il più possibile questa storia che è stata in parte celata, cioè quella dei fucilati di Caserme Rosse. Si parla probabilmente purtroppo di centinaia di persone che sono state uccise con l'azione appunto sia dei repubblichini che dei nazisti direttamente. E quindi è un posto della memoria, un posto della memoria che va rivalutato per quello che è stato, deve essere rimesso al centro dell'attenzione dei crimini della guerra. Vorrei fare un attimo un passaggio sul programma, puoi esporci un po' come si svolgeranno le giornate e quali sono alcuni degli incontri più pregnanti in programma? Allora, il primo giorno abbiamo caratterizzato il susseguirsi delle giornate dando delle centralità indicative, non rigorose perché poi tutte le giornate saranno attraversate dai diversi tavoli, dalle diverse anime del movimento antifascista. Comunque la prima giornata sarà incentrata sulla memoria, proprio a partire dalle caserme rosse, gli incontri con i partigiani, la presentazione dei loro libri, dei loro racconti, delle loro storie. giornate successive vedranno la vicendarsi. Nella domenica, per esempio, c'è la giornata con una centralità sui migranti. Questo parco sarà pieno, come lo è comunque anche durante tutto l'anno. Insomma, la domenica questo parco si riempie delle comunità dei peruviani, dei bengalesi, di arabi e di altri. E lì avremo gli incontri anche delle reti antirazziste nella giornata di domenica. Il sabato, cioè la giornata precedente, avrà una centralità politica sul dibattito, si affronteranno il discorso della nuova destra e su questo avremo alcuni dei giornalisti, compagni che di più hanno lavorato con più serietà sulle questioni, avremo Saverio Ferrari, avremo Lazzaro, ha fatto una Birocca, lo conosciamo un po' tutti, sarà Valerio Evangelisti e poi altri giornalisti nel primo pomeriggio dalle 3 in poi. Secondo pomeriggio si affronteranno i revisionismi storici e anche lì avremo una serie di studiosi e di compagni e di giornalisti che hanno lavorato molto su quello che sta succedendo, dalle foibe alla legge 1360 sulla equiparazione di repubblichini e partigiani ad altre tematiche legate appunto al revisionismo. Il lunedì invece andremo con molti lavori, molti tavoli sulle questioni di genere, quindi comunità GLBTQ e i tavoli delle donne di queste comunità. Martedì sarà giornata conclusiva, cercheremo un po' di accorpare i risultati dei vari tavoli di lavoro, dei workshop, delle esperienze di riflessione e di incontro che sono stati nei giorni precedenti. Ancora avremo una manifestazione lunedì, sarà una manifestazione particolare perché usciremo con le bande musicali, abbiamo 6-7 bande musicali che faranno workshop nei giorni precedenti e caratterizzeranno il corteo del lunedì pomeriggio. Ancora che si possono citare spettacoli importanti come Mai Morti di Bebo Stolti il martedì, ci sarà Biacchessi con Il Paese della Vergogna, avremo Verona Capuzfasci, questi sono spettacoli teatrali, avverranno nelle serate, mentre invece le nottate, non potendo tenere delle amplificazioni nel parco, si svolgeranno negli spazi sociali che sono qui limitrofi vicini, che sono il Lazzaretto e il Crash. Saranno un paio di 3 nottate di musica in questi spazi qui. Voi avete predisposto anche un'area campeggio in quella che è l'organizzazione logistica del parco. Quindi vi aspettate con una partecipazione di tiratura nazionale abbastanza ampia? Sì, ce l'aspettiamo. Il parco si presta moltissimo perché è un bel parco, c'è lo spazio per le tende, noi abbiamo trattato al meglio possibile le strutture. Per poter ricevere e dare una possibilità di una vita di comunità, insomma, cioè in questi 5 giorni si chiede di lavorare assieme, di partecipare sia ovviamente agli sbattimenti che alle parti più piacevoli, lavorando tutti quanti assieme in una maniera organizzata ma assolutamente autogestita. Quindi nelle mattinate avremo le riunioni, tra virgolette, più che riunioni, diciamo gli incontri in cui dalle singole realtà italiane verranno esposte le situazioni, cioè come i compagni stanno affrontando le questioni con i fascisti, con la destra sociale al nord Italia, quindi la Lombardia, Milano, Brescia, Bergamo, Verona. E sabato, questo, domenica si vedrà invece con il Centro Sud, vedremo i romani, sentiremo da loro cosa ci raccontano sulla loro scena, che fosse quella più difficile. Certo, quindi l'invito è di raggiungere il Parco delle Caserme Rosse a Bologna dal 29 al maggio al 2 giugno. Vuoi ricordare i contatti per il programma completo, il sito internet? Il sito è fest-antifa.net o anche dal sito di ecn.org/antifa troverete il banner intestato, da lì sul sito del festival trovate tutte le indicazioni, sia sui contenuti, sulla programmazione, che sulle logistiche e sulle organizzazioni.